l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori di Radio 24 e cari ascoltatori, dopo un po' di tempo possiamo anche iniziare a dirlo, fedeli o nuovi giunti qui ai Conti della Belva, buon fine settimana in questo sabato 23 gennaio del 2016, sono 10, perdonate, e 8 primi, siamo in diretta di Studio Milano della radio, Sante Merenziana, chi si chiamasse Merenziana, auguri ovviamente. Sì, auguri anche perché diciamo, è un impegno, diciamo, buongiorno, è Merenziana. Magari, magari è un nome che porteranno straordinario. Io dovrei stare zitto. No, capisci. Questo è il compare Carlo Alberto Carnevale Maffè, che poi sì, fa le battute sui nomi degli altri, cari ascoltatori. Allora, siamo qua con appunto il compare Carlo Alberto, si è già presentato, è collegato con noi anche Mario Seminerio. Buongiorno Seminerio, come stai? Buongiorno a tutti, sto abbastanza bene, diciamo. Ecco, compatibilmente con una settimana abbastanza dura. Ma questo lo vedremo subito. Ma non sei solido, non sei, t'ho visto solido, di solito sei solidissimo, Mario. Solido, sono solido. Ah, perfetto. Sono sempre solido, diciamo. Allora, questo... però tendo a sublimare ultimamente, divento gassoso. Questo è l'aggettivo solido, è quello che, come sapete, cari nostri affezionatissimi ascoltatori, è quello che ormai viene associato per definizione, per default si direbbe in inglese, ma in italiano... Non è il caso di parlare di default. Esatto, al sistema bancario italiano, perché... è stata la settimana in cui si è ballato molto, ma naturalmente invece le tesi che si confrontano ufficiali sono quelle di un sistema solidissimo, di un sistema a prova di bomba, di un sistema del mondo che ci invidia, anzi proprio per questo tenta di smontarcelo. Allora, di che cosa parliamo in questa settimana, in maniera che possiate organizzarvi per intervenire all'800 24 0024 per mandarci i vostri SMS con le opinioni al 349 238 6666. Diciamo che abbiamo due grandi blocchi di questioni. La prima, ovviamente, è esattamente quella collegata al grande ballo su dei titoli della borsa italiana, soprattutto quelli bancari, al grande problema bancario, sullo sfondo di quello che avviene nel mondo. Quindi vedremo con Mario, iniziando la trasmissione, le novità che emergono dall'ultimo conferenza stampa e dall'ultimo incontro del Consiglio della BCE, un pochino di cornice generale dei segnali che rimbalzano e si concentrano sul palcoscenico Davos dal mondo intero, petrolio, quello che volete, ma insomma la vera questione poi è soprattutto le banche italiane, perché questa settimana il governo ha messo tutte le batterie di cui disponeva, le ha sparate ad alzo zero per difendere le banche italiane. I giornali hanno, diciamo, con una certa vasta propensione ad abbeverarsi a un luogo comune, rilanciato la tesi del grande complotto mondiale contro le banche italiane. Ci chiederemo, ma è proprio così? Ci credete? Ci sono gli oscuri gnomi che da lontano cospirano contro un sistema che è solido? Il Presidente del Consiglio ha detto porta a porta che MPS è una banca risanata e ha invitato tutti a comprarne i titoli. Domanda, sarà vero o non sarà vero? Avremo un ospite e ci confronteremo. E anche su una cosa, visto che per la prossima settimana è atteso la chiusura del confronto con la Commissione europea su questo veicolo volontario dato alle banche italiane per dimagrire dei troppi crediti deteriorati che hanno in pancia, oltre a tentare di capire di che si tratta, ci chiederemo un'altra cosa. Ma non c'è forse possibile un'altra strada fatta con procedure di mercato, fatta con prezzi di mercato, senza bisogno di garanzie pubbliche, per ricapitalizzare le banche italiane e dare loro la forza, quindi per sostenere anche eventuali perdite da cessioni dei crediti deteriorati a prezzi di mercato senza bisogno di interventi pubblici e per di più rendendo più efficienti gli asset proprietari di controllo del sistema bancario italiano? Tenteremo di spiegarvi, perché noi siamo convinti di sì. È uscito un articolo questa settimana, ne parleremo. Sicuramente, magari non andrà in quella direzione la decisione italiana, però siamo interessati a spiegarvi che non è vero, che c'è il mondo cattivo che ci vuole impedire che con lo Stato buono si facciano tante cose positive, anche così solide, che se fossero state così solide non ne avrebbero avuto bisogno del resto. Allora, questo è un primo blocco di problemi, poi ce n'è un altro che è relativo a una delle questioni interessate dai decreti di attuazione della riforma Madia varati nel Consiglio dei Ministri mercoledì sera, il decreto legislativo, mi riferisco a quello sulle partecipate. Vi hanno raccontato che grazie a questa svolta, tutte svolte ovviamente positive, quelle che avvengono, le partecipate si ridurranno a meno di 1000, addirittura da 12.000 che sono, che tutto sarà sveltito, efficientato, eccetera, eccetera. Ci chiederemo, il testo definitivo come al solito non c'è ancora, però c'è un testo, quello che è entrato al Consiglio dei Ministri, che da quanto abbiamo appreso dal Consiglio dei Ministri è cambiato di poco, vi diremo di che cosa, e in quel testo ci chiediamo, è davvero ragionevole aspettarsi che da quel testo ci sia in arrivo quello che vi hanno raccontato, oppure tutto resterà quasi come prima, come temiamo noi? Ecco, anche questo ve lo spiegheremo con un ospite, con due ospiti anzi, e tenteremo di capire se il rischio sia, io vi dico subito di sì, la mia opinione è che chiuderanno solo scatole vuote, quelle, come ripetono sempre, con più amministratori che dipendenti, ma per il resto, come vedrete, per il resto resta quasi tutto così com'è, anche se è molto più accentrato. Le scatole piene non cambiano mai, ecco, cioè, quelle vuote, ma quelle scatole piene rimarranno in eterno. Possiamo che ti essere ha colpito sicuri. Oltre a questo, Carlo Alberto? Ma io sono settimana. Arrabbiato perché per la prima volta stamattina sono d'accordo col Papa. È una cosa che non mi succede da anni. Sei d'accordo col sì, Papa? Sì, adesso ti spiego perché. L'ultima volta che è successo mi ricordo, era con Ratzinger, al discorso di Ratisbona, che era un po' sofisticato. Ti ricordo quella distinzione? Ecco, poi è finito benissimo dal mio punto di vista, che ha marcato un punto. Però stamattina sono stato d'accordo col Papa, che ha detto una cosa importante: non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione. E io sono d'accordo, ovvero, cari diciamo papisti, o comunque diciamo cari tifosi di... Spiegala rapida, perché sennò la gente crede che sia un papista. No, io non proprio. È giusto separare le unioni volute dalla religione e quelle volute da... per esempio lo Stato, dalla legge, e quindi perché interferire? Perché non riconoscere evangelicamente, se posso dire, la distinzione fra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio? E quindi perché intervenire a piedi uniti con una legislazione che semplicemente riporta l'Italia un minimo in linea con il resto dei paesi civilizzati, riconoscendo la libertà di scelta dell'organizzazione della propria famiglia? Quindi mi ha fatto arrabbiare semplicemente perché riconoscermi in questa Italia che oggi nel 2016 dibatte ancora se o meno procedere verso unioni civili, insomma, mi fa sentire francamente inadeguato come paese. Comunque il problema è esploso, oltre che per la presa di posizione della Chiesa cattolica, che mi aspettavo, essenzialmente è tutto un problema interno al PD. Perché, ripeto, ci sono più di 20 parlamentari al senatore del PD, il Senato si balla, perché questa è stata la settimana in cui il governo ha fatto approvare la riforma della Costituzione del Senato solo grazie a Verdini decisivo, Razzi decisivo per il governo, chiusa parentesi, non voglio polemizzare, in politica sono cose che avvengono, basta che ce lo ricordiamo, però questo tema delle unioni civili è tutto del PD, perché i senatori, dove appunto i numeri ballano, decisivi, che depositano a decine emendamenti inaspettati radicalmente contro lo spirito della legge, e lo fanno in questi ultimi giorni del tutto inaspettatamente, sono tutti al PD, cioè i parlamentari, i senatori che chiedono 3 anni di carcere e 1 milione di multa per la maternità surrogata, brutalmente nota con, sotto la formula che a me non piace, dell'utero in affitto, e sono del PD, caro Alberto. Quindi c'è un problema nel PD che dice di essere, ma dentro cova pluralità di culture legittime, rispettabili, ma radicalmente opposte. Questa è la faccenda. Invece, Mario, a te questa settimana che cosa è che ti ha fatto inquietare, oltre a quello che abbiamo detto? Allora, guarda, una cosa su tutte non ha contenuto prettamente economico, sono indignato perché la stampa ne parla mediamente poco, cioè l'ipotesi che l'amico di sempre, il testimone di nozze, ma soprattutto il maggiore finanziatore del Presidente del Consiglio, possa diventare consulente per la cyber security del governo italiano. Carrai. Carrai, esatto. Già nella versione... edulcorata dalle stesse comunicazioni del ministro Boschi alle Camere, cioè è un consulente rispetto alla versione originaria decisamente inquietante, no? Che ipotizzava che questo signore imprenditore privato diventasse una sorta di dominus coordinatore dei servizi segreti civili e militari. Ma il problema è che credo che 20 anni di Berlusconi non sono passati in vano, nel senso che se le cose stanno veramente in questi termini, questo paese è completamente narcotizzato e questa è una cosa oggettivamente inquietante. Dopodiché ho sentito il Presidente del Consiglio dire che se effettivamente Carrai avrà questa consulenza ci rimetterà un sacco di soldi, perché dovrà fare un blind trust, dovrà privarsi delle sue attività imprenditoriali nel campo della cyber security ed altro. Se questo avverrà, ed avverrà in questi termini, ne prenderò atto. Fino ad allora resterò inquieto, perché questo paese rischia un cortocircuito democratico. Non vorrei usare questo aggettivo fuori luogo, ma questo è esattamente quello che penso. No, hai ragione Mario, perché sul tema della sicurezza informativa stiamo parlando del cuore della democrazia, no? Della separazione, esatto, fondamentale fra legge e individuo. E siccome in America di questo hanno fatto un grandissimo dibattito, controverso sicuramente, magari con tanti errori, è giusto che lo poniamo anche noi. Cioè, esatto, passi Lotti ma non passi Carrai, è questo che voglio dire. Non no? Esatto, non passi Carrai, esattamente, esattamente. E poi, metteremo un cartello. E poi, se mi consenti un 10 secondi, certo, volevo segnalare con soddisfazione la risposta del vice direttore generale dell'ABI, dottor Torriero, ai miei rilievi sulla crescita esplosiva dei mutui. Io ho postato la risposta del dottor Torriero sul mio sito, al post l'ABI rispose. Cosa si può dire? Che la mia tesi del forte aumento dei prestiti personali era infondata, perché come mi ha detto il dottor Torriero è un effetto ottico statistico che deriva dal fatto che a giugno dell'anno scorso 3 grandi banche italiane hanno incorporato le rispettive società di credito al consumo e pertanto quell'esplosione di prestiti personali non è reale. Era solo uno spostamento di perimetro, questo che stai dicendo. Esatto, cambiava il perimetro e così è finito nei dati della Banca d'Italia. Questo è importante perché tra tutte le altre cose, oltre a confermare che per quanto riguarda i mutui siamo alla derivata seconda, per cui c'è un miglioramento ma non è ancora aumentato lo stock, ma soprattutto ci dice che il forte aumento dei prestiti alle famiglie che si rileva dai dati della Banca d'Italia degli ultimi 12 mesi non è reale, perché è semplicemente imputato allo spostamento da finanziarie in precedenza non censite dalla statistica di Banca d'Italia al sistema di rilevazioni della Banca d'Italia medesima. Quindi io ringrazio nuovamente l'ABI per la precisazione, evidentemente le mie reiterate richieste hanno trovato orecchie sensibili e attente, e questo non è poco, visto che io sono esattamente un signor nessuno o banalmente un cittadino elettore contribuente, nonché utente di servizi bancari, e quindi diciamo che l'ambito della propaganda, visto che qualcuno diceva che l'esplosione dei mutui era dovuta al Jobs Act, forse bisogna riflettere attentamente su questa circostanza. Aspettiamo ulteriori riscontri in merito. Non so se avete capito, cari ascoltatori, quando sentite dire da fonti ufficiali, quindi il governo che vanta più 97% dei mutui, dite stop, non è così, chiaro? Ma non è così per un ordine di grandezza molto molto molto molto rilevante. Siamo riusciti a svolgere il nostro ruolo, cioè l'ABI ci ha chiamato e ci ha detto beh, effettivamente, ecco, effettivamente. Allora, torniamo tra un minuto con a che punto è la crisi e vedrete che tanto di banche dobbiamo parlare. Voi intanto telefonate, ci credete davvero che MPS è già risanata, un bel brand, è giusto che il Presidente del Consiglio vi inviti a comprare quello suo mestiere? Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Della belva. Eccoci qui tornati in diretta a 10:22, primi 18 secondi, facciamo partire la sigletta del a che punto la crisi. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Eccoci qua. Eccoci qua, questa più che la crisi è stata la riproposizione, almeno dal mio punto di vista, di alcune stimate di passione dell'estate 2011, quando poi il centrodestra fu travolto, ma tentò di dire anche lui che c'era un complotto mondiale contro l'Italia. E devo dire, io non sono tanto colpito dalla politica dopo decenni, cari ascoltatori. La politica si difende come può. Renzi è un meraviglioso Cassius Clay, nel senso che è rapidissimo nel costruire risposte organizzate, tonanti, rapidissime, pesanti e anche efficaci, perché i media lo seguono molto nel affrontare minacce nuove. Però proprio perché uno è vecchio e fa questo mestiere, il giornalista economico e finanziario vede un po' tornare sempre gli stessi argomenti di fronte alle stesse pecche, cioè a delle solidità di fondo del sistema italiano, in questo caso quello del sistema bancario. C'è chi ne parla da anni, come me, nelle trasmissioni che faccio con i nostri ospiti, con gli amici che condividono come compare dei conti della Belva di fondo alcune impostazioni, e quindi non ci inventiamo nulla perché ve lo raccontiamo da tempo, e invece quando poi si va alle corde, ecco che si dipinge il complotto mondiale. Attaccano le banche perché noi non abbiamo utilizzato i denari altrui, ai tedeschi, il Sole 24 Ore è arrivato a scrivere che la Germania ha utilizzato 500 miliardi per le sue banche pubbliche. Stamattina vabbè, sulla stampa c'è una precisazione importante, diceva veramente sono 15, no, come diceva giustamente Mario. Delle robe che uno dice, è gente che la sa che sta raccontando una cosa per l'altra. E a me questa cosa, lo dico come giornalista, non mi scandalizza neanche più, mi fa schifo. Sono molto sincero nel dare giudizi tranchant che faranno arrabbiare colleghi. Oggi c'è importante settimanale finanziario che esce il sabato, che dice ecco perché l'attacco alle banche italiane è costituito da signori economisti che scrivono autorevolmente che bisogna fare la moratoria del bail-in, questa cosa la scopriamo a gennaio inoltrato, poi scrivono la settimana dopo invece che, dopo aver detto, quindi aver sposato la tesi ufficiale della Banca d'Italia che a me lascia senza parole, scrivono la settimana dopo che invece no, Renzi sbaglia perché sta coprendo troppo la Banca d'Italia. Dici, ma come, tu la settimana scorsa hai scritto l'esatto contrario? Ecco, a me tutto questo scenario, vi dirò, poi mi taccio sulla crisi, mi ha molto, non stupito, ma molto amareggiato. Perché credo che un Presidente del Consiglio, per esempio, non possa, non debba andare in televisione invitandovi a comprare titoli Monte Paschi di Siena. Sono i numeri a dire che non è vero, ne parleremo tra un po', però fa parte di questo sfondo generale dei problemi su a che punto è la crisi. C'è un problema di grande abilità da parte del Presidente del Consiglio, di regolatori che secondo me vedono venire al pettine un po' di problemi su come sono comportati in questi anni, però riflettiamo innanzitutto su quello che viene dalla BCE e dai mercati. Mario, illuminaci. Beh, sai, quello che è successo questa settimana a me è parso, diciamo da subito, come una sorta di attacco speculativo concertato massivo. Però la differenza è che quando io parlo di attacco speculativo non parlo di forze del male che vogliono colonizzare la patria, diciamo, e contro le quali dobbiamo lottare fino alla fine. Parlo semplicemente di operatori che vedono delle debolezze strutturali di un sistema economico e finanziario e cercano di sfruttarle. Se a tutto questo aggiungiamo diciamo uno dei nostri massimi regolatori e vigilanti arriva a chiedere alle banche a mercati chiusi di dichiarare se sono stati contattati dalla Banca Centrale Europea, e questo non fa altro che aumentare lo stigma contro chi ha detto sì, sono stato contattato, e dopo vengono mitragliati. Tutto questo serve per permettere al presidente di questo regolatore di mostrarsi sul pezzo nei confronti di politica e istituzioni. E io come cittadino italiano mi incazzo, perché c'è veramente un comportamento di un provincialismo e di un dilettantismo unico. Poi per quanto riguarda quello che hai detto tu sul fatto che, cioè, io vedo una reiterazione sui giornali e le banche tedesche sono state salvate con 500 milioni di migliaia di miliardi, ho letto persino che la Cassa Depositi e Prestiti, a differenza della KfW tedesca, la KfW tedesca è fuori dal perimetro della pubblica amministrazione. Ma perché, la Cassa Depositi e Prestiti dove sta? Su Marte? Vabbè. Cioè, allora, siccome io di fronte a questi, guarda, a me questa settimana, non per parlare di me, perché non, penso che la gente non possa fregare di meno, ma ha scritto un mio lettore dicendo: la preferivo fino a qualche mese fa quando era più keynesiano, adesso lei è diventato improvvisamente liberista. Cioè, allora, o io sono dissociato, cosa che peraltro è altamente probabile e possibile, oppure semplicemente quando le situazioni cambiano io adeguo la mia valutazione a situazioni cambiate. Cioè, non è che perché i tedeschi, ragazzi, che mi ascoltate, signori, guardate, i tedeschi hanno speso soldi loro, hanno speso soprattutto garanzie. Se anche avessero speso denaro vero, erano soldi pubblici tedeschi. Un sistema bancario può essere misto, cioè può avere la presenza rilevante dello Stato e degli enti locali in istituzioni creditizie. Sì, non avviene da nessuna parte, non è un complotto, state tranquilli. Cioè, noi in questo momento dobbiamo lavorare per fare dell'Italia un paese normale, come diceva la buonanima politica di Massimo D'Alema. Ma noi non riusciremo mai a fare dell'Italia un paese normale se, aprendo un qualsivoglia giornale, si legge che proprio la patria è assediata da gente che cerca di conquistarla. Oltre a leggere quelle che sono delle autentiche farneticazioni, lo dico con dolore, di illustri cattedratici, allievi, ad onore in vista l'età, allievi di Guido Carli, che dicono bisogna prepararsi e dare un ultimatum, uscire dall'Unione Europea e cercare altre alleanze internazionali. Stai parlando di Paolo Savona. Ecco, anche cioè, voglio dire, una persona tra quelle di cui io ho sempre avuto estrema stima per l'equilibrio e anche per la storia personale e politica, che ora mi parla come se fosse, non lo so io, un complottardo di provincia, cioè non possiamo avere un dibattito pubblico di questo tipo in questo però, paese. Però possiamo, perché la politica ha deciso di indicare esattamente questa strada, cioè di levare il terreno a Grillo e a Salvini appropriandosene, dandogli il crisma dei grandi regolatori italiani. La Banca d'Italia nella sua storia non ha mai usato i toni che sta usando di scontro violento e radicale della Commissione Europea, dell'impianto europeo, della BCE. La Banca d'Italia è arrivata a dire che lei si è battuta per la moratoria fino al 2018 e crede che sia ancora necessaria delle norme per la risoluzione e per la recovery bancaria. Peccato che non ce ne fosse traccia. Continuano a raccontarci che c'è questa trattativa, ma la Commissione Europea ha torto radicale per averci impedito la bad bank. Noi non ne abbiamo mai conosciuto i particolari, perché non ci hanno mai detto su cosa hanno trattato, né conosciamo nel dettaglio i particolari della trattativa che stanno conducendo adesso. Ed è per questo, come diceva Mario all'inizio, che alla fine i mercati colpiscono, perché nel giro di pochi giorni prima i regolatori hanno fatto scrivere ai giornali italiani che non si accettava per l'abbattimento del valore della cessione dei crediti deteriorati rispetto al nominale una media che è quella del tutto analoga con cui si sono risolte le quattro banche. Sapete che la cessione alla bad bank delle quattro banche risolte è avvenuta con 17 di valore riconosciuto rispetto a 100 di nominale, quindi con 83 punti di abbattimento, oppure addirittura rispetto a 90 punti quelle dell'ultima tranche della BCC. E allora a quel punto è ovvio che i fondi specialisti internazionali che si occupano di rilevare crediti deteriorati si sono dati da fare per spingere ulteriormente le banche ad avere poco tempo, per così dire, e il regolatore italiano a stringere in breve entro questa soglia, sottoscrivendo l'accordo con la Commissione Europea. È ovvio che tu così dai un segnale ai mercati se lo dai in pubblico. Dopodiché, il giorno dopo, due giorni dopo, il governo cambia idea e dice ai giornali: no, noi non accetteremo soglie superiori a un abbattimento del 70%. Capite bene che ci sono 20 punti di distanza, qualche centinaio di miliardi. Esatto. Allora, a quel punto i mercati tirano sul freno. Però sono i regolatori, cari ascoltatori italiani, che incessantemente fanno un mestiere diverso da quello di avere le idee chiare, trattarle riservatamente e metterle sul tavolo. E invece no, noi abbiamo gente che dice: comprate, vendete. La Consob, francamente una Consob abbastanza da ridere, se posso. Comunque, la situazione è una situazione complicata anche per quello che c'è nel mondo. Però Roberto, Oscar, dobbiamo dire una cosa. Mentre è comprensibile che la politica in un certo senso si sbilanci a confrontarsi con l'Europa per togliere spazio al populismo vero, e secondo me posso dire, è cinica ma intelligente e secondo me anche addirittura efficace. Quello che non riesco ad accettare è che lo facciano Banca d'Italia, Consob e le istituzioni. Quelle no. Però evidentemente... Ragazzi, rendetevi conto, a pensarla così, a dirlo, siamo rimasti in pochissimi. Loro pensano che noi siamo dei matti provocatori, Cioè, persone che abitualmente non usano questi toni, in queste settimane hanno scritto delle cose roboanti. Sto parlando appunto di persone autorevolissimi, economisti, cattedratici, direttori di giornali. Stiamo sbagliando noi? Io non so, no, io me lo chiedo. Ci siamo rimasti a difendere dignità e ruolo di istituzioni come Banca d'Italia. Io non mollo un centimetro, assolutamente. Però loro dicono che siamo noi a non capire nulla, che c'è una solidità di fondo. Cioè, l'ABI e Banca d'Italia chiamano e mi dicono: ma cosa c'entra? Sei un provocatore. Non devi... L'esposizione dei crediti deteriorati non si giudica coi criteri che vuole la BCE. Cioè, non si giudica con il coverage, cioè la copertura garantita con patrimonio della banca, perché quello che conta è che i crediti deteriorati italiani hanno una garanzia superiore al loro valore del 120%. Dico, ma scusate, se non c'è patrimonio accantonato, ma cosa c'entra? Lo sai benissimo che noi abbiamo più garanzie reali immobiliari e che quelle valgono di più degli attuali prezzi sul mercato. Cosa vale il famoso capannone a campo basso? Ma scusate, che cacchio di ragionamento è? Ma adesso ci mettiamo a fare la valutazione dei crediti quando ci sono banche che hanno poco patrimonio col criterio dell'escussione tra 10 anni? Quella è una cosa che farà il liquidatore, ma non il criterio di bilancio. Però ragazzi, queste sono le telefonate che arrivano, queste qua. Provino a escutere le garanzie e poi vediamo. Comunque voglio dire, mi pare che si vada verso una bad bank come che andrà a garantire bad bank a livello di singole banche, ma con emissione di cartolarizzazioni di sofferenze. Quindi multi-tranche, no? Ci sarà la tranche più senior, cioè quella più sicura. A questo proposito, nei prossimi giorni preparatevi, perché avremo 60 milioni di esperti di cartolarizzazioni. Ci spiegheranno il mezzanine e il junior. Guarda, delle cartolarizzazioni. Esatto, io queste cose le ho fatte e per certi aspetti le faccio ancora, ma le ho fatte per un quindicennio e sono certo che nei prossimi giorni, soprattutto sui social, riuscirò a farmi un'ampia cultura sulle tecniche di tranching delle cartolarizzazioni. Un minuto e torniamo riprendendo esattamente di qua, cioè caro Alberto tenterà di spiegarci prima che cosa ci aspetta la settimana prossima, quello che adesso Mario ha introdotto, poi questa idea alternativa che è lanciata questa settimana senza troppo seguito, ma noi ci crediamo molto. Non c'è bisogno, in realtà, ragionandoci bene, di utilizzare le garanzie di Stato, si potrebbe fare in un altro modo. E poi una bella riflessione su MPS: è già risanata, come dice il Presidente del Consiglio, oppure no? A tra poco. Al via dal 22 gennaio le iscrizioni a scuola. Ma come aiutare i nostri ragazzi a scegliere le superiori? A Radio 24 lo speciale scuola, quale scelta per i nostri figli? I consigli di insegnanti, presidi e pedagogisti per capire come orientarsi fra licei e tecnici e come valutare le scuole più vicine a casa vostra. Sono Maria Piera Ceci, vi aspetto giovedì 28 gennaio dalle 21. Le vostre domande in diretta o via mail a scuola@radio24.it. Della belva. Eccoci tornati in diretta con Padre dei Conti Alberto della Belva, Oscar, Carlo Alberto e Mario. È Mario che è collegato con noi. Allora, cerchiamo di capire e di spiegare innanzitutto, quindi di far capire loro, ai nostri ascoltatori, in realtà di che cosa si tratta quando si annuncia per la settimana prossima, martedì c'è l'incontro Padoan con la commissaria Vestager, che ha la trattativa aperta con il governo italiano su questo meccanismo nuovo per alleviare dall'eccessivo peso dei 200 rotti miliardi di sofferenze che gravano sui libri delle banche italiane. Diventano 360 quasi se alle sofferenze sommate gli incagli. Non abbiamo mai capito, ma abbiamo appreso a un certo punto ufficialmente dalla Banca d'Italia, che per tutta la prima parte, i primi 9 mesi dell'anno, c'è stata una trattativa aperta con una grande proposta pubblica di intervento, con un veicolone unitario pubblico per risolvere questo problema, a cui la Commissione ha detto no, nessuno ne ha mai conosciuto i particolari. E dopodiché adesso, di fronte all'accelerazione della crisi e per risolvere innanzitutto il problema di un cadavere ambulante, io l'ho detto in televisione, lo ripeto, la penso diversamente dal Presidente del Consiglio, dal punto di vista tecnico i numeri dicono che così è MPS, però è diventato un problema da risolvere immediatamente, perché è il punto più elevato, l'iceberg su cui attiriamo, no? Tutti coloro che fanno dell'instabilità bancaria italiana, a quel punto il punto più debole della debolezza di un'Europa debole in questa fase di fronte ai mercati, la Cina, lo sappiamo, tutto il resto, l'oil, il petrolio, bla bla bla. Detto questo, questa trattativa si chiude intorno a una cosa di cui, Carlo Alberto, che cosa abbiamo capito? Come funziona? Diciamo, funziona che dobbiamo chiudere la forbice che c'è fra il valore di bilancio di questi crediti deteriorati, che sono ancora troppo bassi rispetto al loro prezzo di mercato, Certamente, pur incorporando una serie di valori, i valori nei libri delle banche di questi crediti sono troppo alti rispetto a quello che riconosciamo al prezzo del mercato. Sì, diciamo che, scusami, sono bassi nel senso di la differenza tra il valore reale e il valore di bilancio è elevata. Diciamo, abbiamo circa il 44% di copertura generale e il 56% sulle sofferenze. Cosa vuol dire? Che le banche ritengono di avere dei crediti che valgono più di quello che il mercato dice che valgano, però anche ritengono di avere delle garanzie che nel lungo termine è appunto, però questo è il problema. Questa quale è la tesi termine? Che ci viene contrapposta. Infatti, esatto, io voglio partire da quando quello, ci dicono che siamo provocatori, caro Mario e caro Alberto, è perché ci dicono: voi guardate ai numerini imposti dai tedeschi, dai britannici. Le banche italiane sanno che quei numerini non valgono niente, perché noi siamo abilissimi nell'avere crediti che invece hanno garanzie straordinarie. Peccato che l'escussione di queste garanzie normalmente a tempi tripli o quadrupli rispetto alla media europea. È uscito un report di Goldman Sachs che dice che sono sostanzialmente tra i 4 anni e mezzo e i 7 anni e mezzo tempi necessari per ritornare in possesso delle garanzie, e la gran parte di loro sono immobiliari, e abbiamo ben visto qual è stato l'andamento del mercato immobiliare in questi anni. Ricordo che ho visto delle perizie sulle famose garanzie reali delle banche italiane su capannoni che venivano imputate a un prezzo negativo, cioè al costo di demolizioni, meno 100 euro al metro quadro. Quindi è difficile lì su quello, capisci? No, lo dico perché ho visto le perizie. Quindi torniamo al tema: come facciamo come sistema paese risolvere questo equivoco? Cioè abbiamo a bilancio delle nostre banche dei valori che non corrispondono alla realtà, no? Con tutta la buona volontà dello sperare che nel tempo vengano recuperati. E il governo cosa proporrà? No, il governo propone una bad bank, cioè di farsi carico con soldi pubblici della differenza fra il valore di mercato e il valore di bilancio, mettendo sul piatto decine di miliardi per coprire questa differenza. Ebbene, qual è il problema? Che da anni, e non dal primo di gennaio, dal 2013 sono vietati gli aiuti di Stato. L'abbiamo visto col caso Tercas, che addirittura non prevedeva che lo Stato cacciasse quei 300 milioni, ma siccome era coordinatore di questa spesa, la Commissione europea ci ha impedito di farlo. Quindi illudiamoci poco, soldi pubblici per salvare le banche non possono essere usati. Diverso è il tema delle garanzie, se volete, perché quello è stato usato. La garanzia è un ipotetico, se vuoi, fondo pubblico. Allora, io, come sai, sono uscito questa settimana sulle Sole 24 Ore insieme a Franco De Benedetti con un'ipotesi. Ma lo Stato dice che a questo veicolo volontariamente costituito da una o più banche associate a questo fine darà garanzie pubbliche per l'emissione di titoli da parte del veicolo, certo, che acquista i crediti deteriorati della banca cedente, per l'emissione di questi titoli, cioè per la famosa cartolarizzazione di cui parlava prima Mario Seminerio. Lo Stato dà garanzie fino a 40 miliardi. Mario, hai capito anche tu così? Ma allora... Sì e no. E no, nel senso che, cioè, voglio dire, intanto tutti i giornali oggi dicono che ci sarà martedì questo incontro tra Padoan e la Vestager, per cui quello sarà decisivo, ma ci sono già state delle conference call a livello tecnico, probabilmente anche a massimo livello politico. Esatto. Dopodiché, ripeto, secondo me, siccome c'è un problema di fondo, cioè questi valori con queste decurtazioni risultano comunque in un dissesto delle banche che li cedono, perché chiamiamo le cose con il loro nome. Esatto. Per quello si farà una cartolarizzazione dei non performing loan, quindi una multitranche, la tranche senior verrà mobilizzata e messa sul mercato, e questo mentre le tranche più junior, soprattutto la cosiddetta tranche equity, cioè quella con il maggiore profilo di rischio e anche con il maggior rendimento potenziale, non potranno avere garanzia pubblica e resteranno in pancia alle banche in attesa che si riesca a recuperarle. Secondo me la strada è solamente quella. Però quindi, la mia domanda sorge spontanea. Quindi la tua garanzia è per la parte senior coperta? Sì, per così forza, la parte senior. Ti faccio un'altra domanda e la faccio anche a Carlo Alberto per far capire chi è a casa. La BCE cosa può attualmente, nell'ambito del cui, comprare di tutto questo? Sta tentando di rivitalizzare l'acquisto di cartolarizzazioni. Draghi nei mesi scorsi, quando lanciò il QE, disse: ci serve una garanzia statale per comprare le tranche più rischiose, cioè le cosiddette tranche junior. Che siccome però sono quelle che abbiamo appena detto, è molto improbabile, anzi è praticamente escluso, esatto, che vengano garantite dal Tesoro. Esatto, esatto. Per cui, secondo me, Se arriva la garanzia pubblica, la BCE si compra le tranche più junior e più rischiose, ma dubito, perché qualcuno in Europa direbbe che si tratta di un rischio troppo elevato, e comunque se arriva la garanzia pubblica, questo va ad aumentare lo stock di debito pubblico. Eccolo qua. E questa è la verità, cioè questa è la cosa che mi lascia perplesso, anche se è una contingent liability, cioè una passività potenziale non ancora realizzata, non ancora trasformata in denaro sonante, però ai fini del calcolo e delle norme Eurostat, anche le contingent liability entrano nel conteggio del debito PIL, per cui sarà interessante, perché siccome il diavolo si nasconde sì, nei particolari, sarà importante capire come verrà declinata la costruzione, ma credo in buona misura che si andrà verso una cartolarizzazione multitranche. Però, e dopo mi taccio, la domanda mi sorge spontanea, scusate, che cosa vietava di creare delle cartolarizzazioni di sofferenze, di non performing loans con tranche, multitranche, e di vendere direttamente sul mercato quelle Bravo. Più senior che per Bravo. Flussi di cassa e profilo di rischio sono liberamente acquistabili Bravo. Perché hanno un profilo di rischio e rendimento basso. A questa domanda io sarei curioso di capire qual è la risposta di questi tanto convinti teorici del fatto che siamo un sistema sanissimo, perché questa roba andava fatta per stratempo fa. Cioè evidentemente il prezzo a cui dovresti togliere dal bilancio non fa, come dire, non fa reggere il costrutto con cui il bilancio è stato costruito. Non fa reggere il costrutto perché il problema è che evidentemente in ogni caso abbattimento rispetto al valore del libro apre un problema di ulteriore capitale. Questa è la faccenda perché vera. La coperta è sempre corta. Ne abbiamo accennato la settimana scorsa, quando ne abbiamo accennato alcune ascoltatori hanno detto state proponendo cose terribili agli obbligazionisti, però questa settimana Carlo Alberto tu hai cofirmato invece un paese con Franco Benedetti in cui si spiega una via alternativa. Sì, complementare più che altro, che rende probabilmente questo percorso della Bad Bank trasparente o comunque accettabile, un pochino più sostenibile. Cioè abbiamo detto prendiamo atto che quella copertura va in qualche maniera supportata da capitale privati, perché è impossibile chiedere allo Stato di coprire quel gap, è impossibile perché non ci sono gli estremi. Allora, tema, prendiamo atto che quella copertura va fatta, e va fatta come? Con o aumenti di capitale volontari, improbabili visti i chiari di luna, o con conversione di obbligazioni subordinate in capitale. Strumento perfettamente coerente con le normative europee di nuova adozione, perché considerano le subordinate strumenti di capitale utilizzabili. Quindi, di fatto, si tratta di prendere atto che Babbo Natale questo, non c'è. Questo lo ripeto a chi è in ascolto. Sappiate, perché questo i giornali italiani non ve lo hanno ancora spiegato, perché secondo me la risoluzione europea di cui tutti parlano non l'ha letta nessuno. Non l'ha letta nessuno. 140 pagine ignote. Ha stramille volte ragione Mario quando dice che qua tutti si improvvisano competenti, però poi a studiare sono pochi e a conoscere davvero, e tanto più quando poi per anni lo hanno fatto professionalmente come Mario sulle cartolarizzazioni. Detto questo, cari ascoltatori, è meglio che sappiate che appunto con le obbligazioni meno garantite, quindi con le subordinate bancarie, non solo in caso di bail-in, cioè di risoluzione bancaria, avete capito che l'azzeramento può arrivare a seconda di quanto bisogna coprire. Ma è un fatto traumatico quello, la banca ma viene mandata in risoluzione. Anche nelle procedure pre-bail-in, cioè pre-risoluzione, cioè quelle di recovery, cioè le misure volte a evitare che si vada al default, evitare il bail-in. Nella direttiva sta scritto che il regolatore, in coerenza ai piani di risoluzione che ogni banca dovrà ogni anno redigere, può il regolatore obbligare l'autorità di risoluzione, di risoluzione può obbligare la banca a trasformare le vostre obbligazioni in capitale. No, è chiaro? No, ve lo spieghiamo oggi che funziona così, perché questo sì, non ma senza arrivare alla conversione forzosa c'è un tema di recovery plan, cioè di un piano di recupero che le banche in difficoltà devono predisporre, farlo approvare dall'autorità di risoluzione, e questo piano potrebbe comprendere appunto una conversione, in certi casi magari incentivata proprio da clausole che possono premiare chi accetta questa conversione. Obiettivo coprire la differenza fra il prezzo di mercato e il prezzo di libro, e quindi rendere liquide i valori di mercato sia delle azioni a questo punto sia dei crediti derivati, con un difetto piccolissimo caro, che a quel punto sconvolgi gli assetti di diluisci proprietà, diluisci le proprietà attuali, e quindi, per questo l'abbia è contraria, i banchieri sono contrari, gli azionisti di controllo, le fondazioni bancarie sono contrarie, mi attaccano perché Capito. Mi dicono ma come mi sfili il giocato, esatto cari ascoltatori, per questo ci sono provocatori, perché sosteniamo che gli attuali assetti di controllo delle banche italiane sono inefficienti, come si vede, i regolatori idem. Trovate trovate sui giornali oggi ulteriori conferme del fatto di Banca Italia, che ha fatto finta di non vedere la situazione, da dove venivano i conti finti, che solo oggi i regolatori italiani dicono: ah, conti finti dal 2009 in MPS. C'è anche chi è stato suicidato e buttato da una finestra a Siena per questo. Sto parlando di Davide Rossi. Mai, da sempre sono convinto di questa tesi, eh? Da sempre. Ci sono stati solo 3 morti per scandali bancari nel nostro paese. Ecco, 2 sono uno, Ambrosoli, fatto uccidere da Sindona, e l'altro, l'ex presidente dell'Ambrosiano, trovato sotto un ponte a Londra. E poi Davide Rossi, buttato da una finestra da qualcuno nella sede centrale di MPS. Questo è ciò che poi vi vogliono far dimenticare i signori regolatori italiani. Traffico, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui, tornate in diretta, 10.51 primi, compari Conti della Belva, con Oscar, Carlo Alberto e Mario. Eccolo qua, c'è anche Mario collegato. Allora, un po' di SMS, che dici, Carlo Alberto? Sì, qui chiedono, intanto qualcuno ci dice: fate un buon servizio pubblico, vi ringraziamo, facciamo uno sforzo difficile di far capire, e ci scusiamo invece della difficoltà tecnica, perché siccome è assente il dibattito di questi termini, mancano a volte anche i termini, però vi chiediamo di fare questo sforzo. L'educazione finanziaria, quindi la tutela dei nostri risparmi, richiede un piccolo sforzo di imparare le nuove terminologie, quindi ci scusiamo dei tecnicismi, ma vi chiediamo questo piccolo sforzo, no? E poi ci chiedono: mal di testa per questi grattacapi delle banche, no? Perché non ci dite se i nostri risparmi sono al sicuro. Il problema non è dare un'indicazione su una singola banca, Oscar, no? Il problema è far capire i meccanismi, i modelli. Dobbiamo tutti imparare, così come quando scegliamo un'automobile o scegliamo una mozzarella al supermercato, quali sono i criteri per capire qual è la data di scadenza, capisci? Ci sono criteri un po' più facili per una mozzarella, un po' più difficile per una banca, ma siamo usciti da quell'epoca in cui tanto ci pensava la Repubblica a pagare i conti a piedi lista. Adesso tocca a noi, quindi, imparare a scegliere l'interlocutore dei nostri risparmi è più importante che imparare ad allocarli su titoli di Stato, su obbligazioni. Oggi la scelta dell'interlocutore finanziario è diventata centrale per il futuro dei risparmiatori. Questo è quello che voglio dire a commento dei nostri messaggi, non so, delle telefonate. Allora, sentiamo Piero dalla provincia di Milano. Piero, buongiorno, volevo ringraziarvi innanzitutto perché veramente fate un ottimo lavoro. Ma soprattutto dire, oltre ai ringraziamenti, dica. Dimmi questo: come mai, visto che dobbiamo, come azionisti, come futuri contribuenti eccetera, perché le singole banche non fanno outing? Perché si parla di crediti incagliati, si citano delle cifre enormi mettendo tutti nel calderone. Ma perché i singoli gruppi bancari non dicono: io ho questi crediti incagliati, quindi si vede chi è messo peggio, chi è messo meglio, chi ha veramente dei crediti insostenibili e chi no, e così l'azionista, risparmiatore o chi per esso può affidarsi a un gruppo più serio o non più serio. Perché dicendo che ci sono 300.000 miliardi e milioni di debiti incagliati si dice una cifra, ma non si sa chi ha realmente questi debiti incagliati in pancia e chi invece magari gestisce bene il patrimonio e le varie cose che vengono affidate. Beh, oddio, ci sono i bilanci per questo, non è pubblici, che... sì, ma i bilanci si vede o non si vede? No, cioè, come si vede o non si vede? I bilanci sono pubblici. Però se posso spezzare una lancia a favore dell'ascoltatore, mettiamo sulle sigarette i teschi e gli avvertimenti: occhio che se fumi tu ti uccidi, magari con un po' di calma, no? Perché non mettiamo sicuramente una nomenclatura molto più leggibile e molto più trasparente sui bilanci bancari? Perché non, cioè, visto che chiediamo agli ascoltatori, a me basta. Basterebbe aver adottato prima i criteri temporali per cui, certo, si diventa sofferenze, da sofferenze, da incagli e da allinearli a quelli europei invece di chiamare l'eccezione italiana, come farebbero i francesi peraltro, no? Non so, Mario, tu cosa rispondi? Ah, c'è un SMS per te che dice: ma caro Seminerio, ma se questi professori emeriti rivendicano l'opportunità di uscire dalla morsa europea, non è il caso di riflettere meglio? Quindi Mario, ti invito a riflettere, perché capisci, il presidio dell'interesse nazionale. I bilanci bancari italiani tornano a far scintille. mi metto davanti allo specchio e rifletto. Nel frattempo, no, io vorrei dire una cosa, soprattutto ribadire il concetto, oltre diciamo a comprendere le difficoltà degli ascoltatori che si trovano travolti da terminologie tecniche, purtroppo si può fare divulgazione ma entro dati limiti, no? Perché cioè, io non faccio il neurochirurgo e altri non si occupano di cartolarizzazioni, quindi bisogna cercare di fare divulgazione. Quello che io volevo dire prima, in soldoni e in sintesi estrema, è che al termine di questa operazione, se le sofferenze verranno cartolarizzate, toglietevi dalla mente che usciranno tutte dai portafogli delle banche, perché dai portafogli delle banche uscirà solo la tranche più senior o senior, come dicono i latinisti, che è quella anche più innocua e che è quella che poteva essere strutturata a termini di mercato senza intervento pubblico, a meno che il governo italiano non garantisca la tranche cosiddetta equity, cioè quella più junior, quella più rischiosa, e permetta in tal modo a Draghi di comprarla. Ma non mi pare che ci siano annunci ufficiali in questa direzione, lo vediamo. Però se fosse così, e come prudenzialmente sei obbligato a dire, Mario, significherebbe che il più del problema serio dell'assorbimento di patrimonio nei conti delle banche che frena gli impieghi, cioè poi l'economia reale, resterebbe. Sì, assolutamente sì. È per questo che io non capisco. Quindi, cari ascoltatori, noi per primi vi diciamo che da quel poco che riusciamo a capire, ha ragione Renzi quando in televisione ha detto quando anche si farà questo accordo non sarà decisivo. Ma e allora? Infatti non c'è il silver bullet, non c'è la soluzione e singola. Allora, è un insieme, cari ascoltatori, di cose. Noi diciamo, io, Carlo Alberto, Franco De Benedetti, insomma, tanti altri diciamo, facciamo un passo in più, rendiamo volontariamente possibile ciò che già nella risoluzione europea per la parte di intervento pre-risoluzione è previsto. In termini volontari, le banche si liberino di più anche della parte di crediti diciamo più schifosi, per così dire, deteriorati, quindi debbano affrontare una carenza di assorbimento, anzi la necessità di assorbimento di maggior patrimonio, quindi devono ricapitalizzarsi, e questa è la parola. A quel punto gli azionisti non vogliono, non ce la fanno, di fronte all'inoptato offriamo agli obbligazionisti subordinati, invece della prospettiva di finire gambe all'aria, offriamogli la possibilità di mercato, con valori di mercato, prezzi di mercato e una prospettiva di mercato, diventare azionista della banca e di puntare a quel punto su una banca più ripulita nella parte degli attivi. A, B, con un assetto proprietario più contendibile. Certo. C, più disponibile alle fusioni di mercato. Questo è il problema. Oh, questa è la nostra via di fronte alla quale chi ci dice basta uscire dall'euro, chi ci dice stai zitto provocatore, chi ci dice non sapete che dei numeri delle banche, perdonatemi, loro hanno in mente un sistema bancario collusivo che è una parte della bassa crescita italiana, dove si moltiplicano i politichetti locali avvinti con le manine come amministratori di banche di cui non sanno altro che dare prestiti agli amici degli amici. Questo è il punto, capito? Questo è il punto. E c'è chi è morto perché si temeva che andasse a dire ai magistrati guardate che Banca d'Italia non è che l'ha trovata improvvisamente in una cassaforte i derivati che non erano a bilancio MPS. Questo è il punto vero della storia MPS. Torniamo tra un po', va? Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci tornati qua in diretta alle 11.05 questo sabato, oramai di fine gennaio quasi, ma insomma il 23 gennaio Santa Merenziana. Abbiamo interrotto il discorso parlando di banche, abbiamo tentato di capire che cosa è in arrivo nell'accordo con la Commissione Europea, cartolarizzazione di tranche, a capire insomma, dalle regole e da quello che ci hanno fatto capire, la garanzia pubblica sarà sulla parte più garantita delle tranche di cartolarizzazione per cedere il credito deteriorato delle banche. In quel Caso, come ovvio, significherebbe che solo una parte finisce, per così dire, smaltita con questo criterio di mercato. Non riusciamo a capire perché ci si arriva solo adesso, lo si poteva fare prima. Non riusciamo a capire questo cosa risolve, visto che il più del credito deteriorato, impestato, rimarrebbe nelle banche, ecco. E quindi non riprenderebbe gli impieghi e l'economia reale. Vedremo, forse c'è qualche sorpresa. Noi vi abbiamo spiegato che si può, certo, fare anche un po' diversamente. Fammi fare una presentazione culinaria per capire meglio cosa vuol dire cartolarizzazione. Immaginate un insaccato. Allora, la cartolarizzazione dei crediti deteriorati a due tranche, come direbbe Mario. La prima è quella più sofisticata, più gustosa, diciamo la finocchiona, un po' aromatizzata, che tutti vorrebbero mangiare, come sono fette sottili. E l'altra invece i ciccioli, diciamo, sono un pochino più grassi, e come dire, boh, di quelli invece ce li teniamo in casa. Allora, lo Stato si prende la finocchiona e invece i ciccioli ce li teniamo nei bilanci bancari. Mario, perdonami qui la volgarizzazione, ma almeno ci siamo intesi, è più quasi l'ora di pranzo e riusciamo a essere un po' più chiari. Ecco, noi pensiamo invece che si possa cedere con criteri di mercato, cioè prezzi molto bassi rispetto al nominale, ohimè anche i ciccioli, che a quel punto hanno un valore bassissimo all'atto di cessione. C'è bisogno di capitalizzare a quel punto le banche, perché serve, certo. Gli azionisti attuali non sono molto disponibili, sì, lo sappiamo. Di fronte a questo, volontariamente, senza procedure forzose, qualche banca che ritenesse a quel punto di andare sul mercato con libri puliti e rendersi più accessibile e pronta a fusioni, può seguire una strada diversa, cioè quella della conversione delle obbligazioni subordinate. E questo argomento è un argomento che disegna una via alternativa, ma il problema è pulire davvero i bilanci, A, B, avere davvero assetti contendibili, non continuare a dire che siamo il paese con il sistema bancario più solido al mondo. E soprattutto, se un presidente del Consiglio va in televisione e dice che MPS, che ha avuto 10 miliardi di aumenti di capitale in questi anni, ne vale 2 oggi, ha crediti deteriorati per oltre il 30% del book del suo crediti totale, che sono, insomma, 122 miliardi di euro i suoi impieghi in essere, è risanata una banca così, secondo voi? Tecnicamente si può definire risanata una banca di questo tipo? Va, ecco, io non lo so. Io quello che chiedo è all'avvocato Luigi De Mossi, che rappresenta parti civili nel procedimento per il filone Anton Veneta, che è stato trasferito a Milano e che è in corso e che ha assistito i 250 dipendenti del Monte dei Paschi di Siena esternalizzati in Fruendo, qual è la sua opinione come uomo di legge e come uomo che appunto rappresenta in procedimenti legati al MPS alcune tra virgolette vittime, insomma, che si ritengono tali, quando sente dire che è già risanata, che cosa pensa l'avvocato Luigi De Mossi? Intanto grazie di essere stato con noi ad ascoltarci e oggi di essere collegato in questo momento e di risponderci. Avvocato, prego. Ma grazie a voi intanto di avermi chiamato. Dunque, intanto una sola precisazione: non rappresento tutti e 250 gli esternalizzati di Fruendo, solo una parte, sì. Comunque io rappresento anche loro. Ma guardi, io anche dalle considerazioni che ho attentamente ascoltato devo dire questo. Allora, l'operazione Anton Veneta, chiamiamola così, che mostrava, io sono stato il primo per un cliente a effettuare un esposto, nemmeno una denuncia, un esposto per vederci chiaro su questa operazione, perché già dal 2007 c'erano dati incredibili. Per esempio c'era un dato assolutamente strano, perché per acquistare una banca non era stata fatta né la due diligence né una perizia sulla stessa, era stata acquistata, poi abbiamo saputo dopo, al telefono praticamente. E questo già è un fatto, capite, di una gravità assoluta. Inoltre abbiamo appreso nel tempo che sono stati spesi 17 miliardi, perché dovendo restituire le linee di credito, le linee di finanziamento agli olandesi, siamo arrivati a 17 miliardi. Ora lei capisce che in questa situazione, al netto, dico, delle valutazioni di natura penale che saranno fatte in altra sede, c'è da domandarsi con quali criteri veniva gestita una banca. Se a questo aggiungiamo questa iniziativa, diciamo, di esternalizzare, che è un modo diciamo, per diminuire il numero dei dipendenti della banca medesima, in questo modo è stato censurato, perlomeno in primo grado, dal giudice del lavoro di Siena, lei capisce che ci sono delle domande non solo sulla singola operazione Anton Veneta, che io ritengo, l'ho detto in più sedi, essere il più grave scandalo finanziario, anche superiore a quello della Banca Romana, dell'Unità d'Italia. Secondo me è il più grave in assoluto, perché una delle banche più patrimonializzate d'Europa, il Monte dei Paschi, oggi si ritrova nelle condizioni che avete descritto voi. Perché se non vi fosse stata un'operazione del genere, che non è la sola, evidentemente la solidità di questa banca avrebbe avuto una risposta diversa rispetto al mercato, rispetto ai crediti deteriorati. A questo aggiungiamo anche che, per esempio, proprio per motivi squisitamente gestionali, se lei oggi proponesse alla banca, è successo a me, di acquistare degli immobili, per esempio, a dei prezzi di mercato attuale, c'è tutta una trafila, perché bisogna valutare come apposta a livello di bilancio, perché per non turbare gli equilibri, diciamo, interni e il piano industriale che è stato fatto. Quindi, anziché ragionare in termini di mercato, come si farebbe in famiglia, se io non ho i soldi per dare da mangiare a mio figlio, vendo anche la casa e vado a stare in affitto pur di consentire, diciamo, una vita decente alla mia famiglia, ancora si continua a ragionare in termini diciamo di logica che non è una logica di mercato, come avete detto voi, è una logica squisitamente interna, legata alla propria posizione, al proprio bilancio. Comunque insomma, io mi limito a dire, attento alle regole, che noi abbiamo fatto fare gli aumenti, i regolatori hanno fatto fare gli aumenti di capitale, i famosi 10 miliardi che sono entrati bruciati di volta in volta, li ha fatti fare con conti falsi. Perché i regolatori, cioè Banca Italia e Consob, dal 2012 sanno che nei bilanci 2009 in avanti non sono stati appostati in termini corretti i contratti fatti con Alexandria, Nomura e così via. Lo sanno dal 2012. La rettifica arriva da parte di Consob solo adesso, imposta dalla Procura. Quindi accusa, perché se mi vogliono sfidare, mi denuncino pure. Far fare aumenti di capitale in una banca in progressivo sempre più grave deterioramento, quindi chiedendo la sottoscrizione di capitale a regole contabili che i regolatori sanno essere falsi, per me è una delle più gravi accuse che si possano fare a un regolatore. Per me un regolatore così deve andare a casa, invece di avere i miei autorevolissimi direttori, colleghi giornalisti, eccetera, eccetera, che dicono che chi osa criticarlo è un nemico dell'Italia e della stabilità. Io credo che così si diventa nemici del risparmio del nostro paese, degli investitori, perché i titoli sottoscritti non sono risparmio da tutelare costituzionalmente, sono titoli di rischio, capitale puntualmente bruciato, mentre di volta in volta i ministri e gli amministratori della banca dicevano che non si rischiava niente, vi hanno preso per il culo, vi hanno derubato! E quindi mi dispiace, sono dei ladri, questa è la mia definizione tecnica, portatemi in tribunale, non chiedo niente di meglio di poterlo dire in faccia, in tribunale della Repubblica, così vediamo se le leggi tutelano voi oppure tutelano chi dice. Ma come, sapete dal 2012 che i bilanci sono falsi e non chiedete la rettifica per fare aumento di capitale? Qual è la risposta a questa domanda, signora Banca d'Italia? Mento io perché sono pazzo o tu sei collusa con interessi nel passato? Lo so chi era il governatore all'epoca, è l'attuale, l'attuale presidente della BCE, diciamocela tutta. Lo so perfettamente. E allora cosa cambia che ha perso i soldi? Niente, questa è la mara verità. Vabbè, comunque io mi scaldo molto, però guardi, il problema di Monte dei Paschi è esattamente legato a questo problema dei controlli assenti o comunque come dice lei, tutti da valutare nella loro latitudine, quindi una gestione come quella abbiamo detto, in cui evidentemente anche un po' per ragioni di mercato sono stati dati soldi sulla base di garanzie che oggi sono ridicole, va bene, e un'operazione che non stava in piedi né in cielo né in terra. Nessuno ha detto a questi consiglieri di amministrazione, al presidente eccetera, guardate avete sbagliato, guardate che dovete andare a casa. L'hanno arrestato, poi non è che non l'hanno arrestato, però nel frattempo tutto è avvenuto. Nel frattempo il dopo Mussari secondo me andrebbe giudicato anche con criteri diversi. Credo che la gestione successiva non sia da valutare con estrema attenzione anche in altri ma sensi. Ma sai, il Presidente del Consiglio ci ha detto che è tutto risanato, ci ha detto che in 30 giorni adesso arriverà un gruppo, una cordata italiana, si parla di 3 gruppi, vedremo chi sono. Io spero che non impestino UBI, caro Alberto. Speriamo di no, perché è una banca che ha meriti, certamente ha un qualche gap di copertura, ma insomma è una cosa assolutamente gestibilissima. Non vorrei che per salvare lo zoppo azzoppiamo anche il sano. Pensa poi se arriva Santa Santander è meraviglioso. Santander che rifila il pacco due volte. È un andamento circolare. No, no, certo. È Vichiano, è il ciclo che si chiude. Allora, grazie all'avvocato De Mossi. Noi lo sentiremo in altre anche trasmissioni. Grazie. Franco da Monza, che pensa Franco? Franco c'è? In linea? No, non c'è Franco da Monza. Virginia da Roma? Sì, salve. Salve. Buongiorno Giannino, buongiorno a tutti. Sì. Dunque, io sono uno dei tanti trombati dell'azione MPS. Ah. Avevo 10.000 azioni a 1,50 euro, sono diventate 100, poi sono diventate 5, adesso c'è un valore di 2,50 euro. Vabbè, le azioni sono un epsilon piccolo a piacere, caro Virginio. Va bene, ma io voglio parlare di un'altra cosa. Qualche tempo fa ho ricevuto un invito dal Codacons a prendere parte alla class action. Per partecipare mi hanno chiesto 50 euro di iscrizione, 600 euro fino al primo grado di giudizio e il 10% nel caso avessi avuto un risarcimento. Ma chi è questo Codacons? Uno che difende... E che ci difende o uno che ci frega altri soldi? Lei che cosa pensa? Ecco, lei come si è risposto? E come hai risposto? Ho stracciato la carta e ho tirato la catena. E posso dire la verità, Virginio, io penso che abbia fatto bene, però me l'ha chiesto fuori da col cuore in mano, io le rispondo col cuore in mano. Ecco, allora Carlo Alberto, mi dovete dire a però, che cosa Carlo, serve esatto. Questo Codacons, praticamente dobbiamo, dallo Stato, noi dobbiamo... a difesa dei consumatori, ma che mondo viviamo, Giannino? So. Guardi, la mia risposta è che a me non piace un mondo organizzativo dove la sezione dei consumatori stanno in un libro che sta presso il Ministero, il MISE, e per questo accedono ai contributi. Lei capisce che siccome il finanziamento si fa così, crea un cortocircuito, per così dire, perché a quel punto nella rappresentanza dei consumatori contro lo Stato, se funziona così il criterio di accreditamento, come ovvio, non funziona molto bene. Domanda a Carlo Alberto, ma i tanti come Virginio che ci hanno perso tutto di quello che hanno messo negli aumenti di capitale, a quel punto che possibilità di rivalsa reale hanno, Carlo Alberto? Intanto fammi appoggiare l'estintore che ho appena finito di spegnere l'incendio giannino qua. Mi portate un altro estintore fuori dalla studio, grazie, questo è finito. Che cosa hanno? Intanto imparare che le azioni non sono mai state risparmio tutelato dallo Stato, quindi le azioni devono comprare azioni di una banca in questo contesto normativo così diverso, in un quadro anche tecnologico e industriale che è cambiato radicalmente il modello di banca che conosciamo, che ci ha accompagnato nella nostra storia, non è più lo stesso, quello con le filialoni belle rassicuranti, no? Con i margini di intermediazione belli grassi, no? Quella roba lì non c'è più. Oggi i modelli bancari stanno cambiando radicalmente. Io dico sempre: ma quanti negozi della Kodak ci sono rimasti in città? Nemmeno uno. Ma non perché smettete di fare le fotografie, cari ascoltatori e spogliatori. Ecco. Posso dire un'altra cosa? Prego, Valfredo. Posso dire un'altra cosa? Guardi, all'epoca, quando ancora valeva qualche soldo, le azioni valevano qualche soldo, c'era Viola. Adesso l'hanno rimesso. All'epoca, allora, che cosa ha fatto Viola? Oggi l'hanno rimesso, allora è cambiato. Ma che è cambiato? Però non voglio commentare su singoli casi. In compenso qui, però, Oscar, vedo una telefonata importante. Non so se... No, adesso aspetta, dobbiamo fare una verifica, perché anch'io la vedo. Però faccio un sobbalzo adesso per non... Mentre verifichiamo, prendiamo un minuto di informazioni stradali, perché sì, ma io non ci credo che è lui. È lui o non è lui? Non lo so, verifichiamo un secondo. Non vorrei che ho detto delle cose, per cui adesso torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Pronto? Allora, eccoci qui tornati in studio. Però, caro Alberto, io prima sono balzato perché ho visto un avviso, però mi dicono che sia vero. Io non lo so, io francamente non lo so. Però, cari ascoltatori... Io ho chiesto un esperto di ortotteri e mi dice che... Esatto, e che dovrebbe essere lui. No, non lo so. Però, cari ascoltatori, giudicate voi. Abbiamo una telefonata che vi passiamo in diretta e pare che sia così. Allora, buongiorno! Pronto, Giannino! Ma chi è che parla? Ma come chi è che parla? Sono Beppe. Buongiorno Beppe, come sta? Ciao Beppe, vi stavo ascoltando dalla mia casa qui a Marina di Gabibona, dove mi sto riposando. Io non capisco perché voi continuate a parlare lì, anche quel professore che c'è lì a fianco a lei. Il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè. Maffè, perché Caffè è sparito da un po' di tempo, non capivo dove fosse finito, ho detto, stai a vedere. Che è ritornato. No. Ma voi continuate a parlare del Belin. Ma non è detto, i ragazzi, il Belin bisogna usarlo non per le banche, ma per altre cose, che almeno uno si diverte di più. Sì, ma lei non deve confondere l'origine genovese del dialetto con termini tecnici in inglese, caro Beppe. Ma caro Caffè, guardi che noi abbiamo colonizzato il mondo, noi genovesi, capito? Quindi il problema non è quello, ma soprattutto avete usato il Belin in maniera molto tecnica, devo dire. Esatto, guardi, in nome della cristianità e del Belin noi abbiamo popolato l'America Latina. Vogliamo negare questa cosa? No, perché... No, e allora, però il punto è un altro, caro Giannino, cioè... Tu non riesci a renderti conto qual è l'importanza del reddito di cittadinanza e delle nuove tecnologie? Ci faccia capire. Tu non riesci a capire che in America la gente va nei comuni, ci sono le stampanti 3D. Oddio. E lì si stampano tutto, dalle imbarcazioni alle abitazioni. Giannino, tu in America potresti stamparti anche una laurea o un master, rendi conto come fanno le cose? Sì, è vero, stiamo pensandoci anche noi in Bocconi, una bella stampante 3D per master, potrebbe essere una buona idea. Forse è meglio che me ne astenga proprio in particolare, però detto... Ma non è vero perché c'è tanta gente che ce l'ha autentico, non il Belin, la laurea, ma non se ne fa niente. Però soprattutto ricordate, una stampante 3D è per sempre, risolverà tutti i nostri problemi. Adesso io vi lascio alle vostre belinate. Lei ci deve rispondere una cosa. Renzi le sta levando il mestiere, Grillo. Questa è la verità. Le sta levando il mestiere, se ne renda conto. La verità è che siamo tutti italiani, cioè siamo fatti per fare i teatranti. Infatti non a caso io torno a fare un grande tour teatrale e anticipo Renzi, che mi seguirà tra poco. Va bene, allora. Grazie Beppe di averci chiamato. Ci vediamo a teatro, ci vediamo. Grazie di averci chiamato. E mentre voi ci cercate l'avvocato Todero per una riflessione sul decreto legislativo, quello che promette i tagli a tutte le municipalizzate italiane, caro Alberto, io vorrei chiederti una riflessione. In realtà, se andiamo a vedere il peso che il credito deteriorato ha rispetto al patrimonio delle banche o capitale in eccesso, per chi ce l'ha pochissime, non è che c'è solo Monte dei Paschi di Siena, no. Perché c'è una banchetta, insomma, mica tanto etta, di cui nessuno parla, perché a differenza delle MPS, che significa PD e sinistra, lì c'è un problema vaticano. Cioè Carige, perché c'è Monsignor Bagnasco che si dà molto da fare. Io non rido, perché questo, poi la storia del sistema bancario italiano e i suoi guai derivano da questo, dal fatto che... Allora, perché di Carige nessuno parla? E Carige si parla poco, effettivamente, un po' per la cultura, diciamo, di riservatezza tipica della Liguria, chiamiamola così. Un po' perché effettivamente è stato un caso un po' particolare. Devo dire che Carige ha una storia organizzativa e professionale molto più solida, molto più affidabile delle grandi traversie che invece hanno attraversato. Però il vertice su al 14° piano, lì non mi ricordo più dove, del grattacielone, ha fatto cose che, so, abbiamo visto tutti non essere esattamente con le migliori prassi internazionali. Lì si parla poco, anche se la banca comunque è oggetto ancora oggi di interessi e di attenzioni, perché effettivamente è una banca utilizzabile nel grande risico che si sta prospettando, caro Mario. La verità è che dobbiamo interrogarci su che tipo di banche vogliamo ottenere in futuro, e non basta sommare delle debolezze. Ma le abbiamo già così solide, caro professor Carlo Alberto. No, non è così, le banche non sono solide perché non basta guardare i dati patrimoniali, peraltro inaffidabili. Dobbiamo guardare il modello di business. E qui voglio ricordare una cosa che ha già citato Mario, ma per me è importante, chissà se Mario ritorna, ma è importante dire che la BCE quest'anno metterà l'attenzione su due elementi importanti. Quindi spostiamo il dibattito dal bail-in e dal rischio un po' terroristico del perdere i soldi, e spostiamo il dibattito sulla scelta di una banca affidabile in linea con le prassi europee dal punto di vista organizzativo, quindi trasparente, digitale, in grado di rappresentare correttamente i rischi e di dare le informazioni. Questo è il tipo di banca. Purtroppo dobbiamo dimenticarci il passato del sistema bancario italiano e cominciare a guardare alle banche del futuro. E qui siamo all'anno zero, caro Oscar, siamo all'anno zero. Dimentichiamoci brand, nasceranno banche nuove che cambieranno nome. Ma se tu dici che io sono incendiario, poi dici che siamo all'anno zero. Siamo all'anno zero. Non facciamo altro che vantare la perfetta organizzazione dei nostri sistemi commerciali, non so, non customer care. Guarda, stamattina il membro del comitato di vigilanza europea, tedesco, ha ricordato che dobbiamo addirittura unificare il diritto fallimentare europeo, perché è una componente essenziale per fare banca oggi. Quindi non soltanto centralizzare la garanzia dei depositi, elemento importante, pilastro fondamentale dell'unione bancaria, ma anche il diritto fallimentare deve essere fatto convergere, altrimenti è evidente che noi avremo sempre frammentazione finanziaria, no? Allora, come avrete capito, noi siamo critici, minoritari ma critici. Vedremo cosa avviene questa settimana sull'accordo cartolarizzazione in parte garantita, ma se è garantita dallo Stato per la parte solo, diciamo così, più mercatabile, capirete che non cambia quasi niente. Questa è la mia impressione. Noi vogliamo invece un meccanismo di mercato, anche con conversioni volontarie da capitale da crediti nei confronti delle banche in capitale delle banche. Crediamo che diluire gli azionisti a quel punto sarebbe giusto e si farebbero migliori fusioni. Saremo minoritari, ma un'altra strada c'è. Però questa settimana altra grande novità: il governo dice che con uno dei decreti legislativi della riforma Madia, virgola, che avete apprezzato in Parlamento ma soprattutto in televisione, cadere in plateale contraddizione sul testo della sua stessa riforma, che evidentemente non conosce, visto che ha detto che i dirigenti pubblici sono licenziabili immediatamente se non licenziano in 48 ore i furbetti del cartellino, perché quello dei dirigenti pubblici è il reato possibile del resto. Nel testo non c'è né che il reato, ovviamente è un illecito disciplinare, ma tantomeno l'arresto. Questo è il ministro che va in televisione a spiegare le sue leggi. Ma con un altro decreto, quello legislativo relativo alle partecipate pubbliche, vi è stato spiegato che si va a 1000 partecipate pubbliche, sono circa 10.000, cambiano i criteri identificativi, chi dice 12.000, chi dice 8.000, ieri è uscita la UI dicendo no, sono in totale 7.472 per gli enti territoriali e 423 quelle delle amministrazioni centrali, circa 8.100. Comunque non sappiamo neanche quante sono. Sappiamo che in queste 8.000 ci sono 26.500 consiglieri di amministrazione. Sappiamo che in tre anni ne sono state chiuse e dismesse soltanto 251 di nessun rilievo. Nel decreto legislativo, dice il governo, scenderemo a 1.000 perché ne chiuderemo obbligatoriamente a migliaia. Il testo che noi abbiamo del decreto legislativo ci fa pensare che non sia così. Per una serie di ragioni, e abbiamo chiesto a chi ne ha scritto, perché l'ha esaminato appunto l'avvocato Rocco Todero, trovate il suo articolo anche sul Leoni Blog, di risponderci a questa domanda. Perché secondo lui non cambia molto, e non solo per il numero e i criteri delle cessioni, ma anche per i criteri con cui si fanno le gare o si mantengono gli affidamenti in house. Grazie di essere con noi, Rocco. Buongiorno, grazie a voi. Perché le cose secondo te non cambiano molto in realtà? Ma le cose non cambiano molto per una ragione, diciamo, abbastanza semplice, perché nella bozza di decreto legislativo ci sta scritto innanzitutto che da questa disciplina generale sono escluse le partecipate pubbliche che si occupano di gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale, e questa è la prima osservazione che ci consente di dire che si esclude un grosso gruppo di partecipate. E poi perché i criteri sostanzialmente perché una pubblica amministrazione possa partecipare a una società pubblica, possa costituirla ex novo, sono sostanzialmente rimasti gli stessi, cioè è sufficiente che nello statuto si scriva che la partecipata serva a svolgere un'attività di produzione e servizi strettamente necessaria al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente. Amen. Ora capite che si tratta di una definizione talmente ampia, talmente lata, che è veramente difficile impedire, soprattutto diciamo, ai politici locali, di inserire questa clausola all'interno degli statuti. Tenete conto che nell'ambito della dottrina pubblicistica si sta addirittura ancora discutendo quali siano le funzioni fondamentali degli enti locali. Figuriamoci cosa significa dare questa possibilità. Tra l'altro, poi, anche se in maniera semplificativa, la bozza del decreto dice che comunque le amministrazioni pubbliche possono costituire le società per produrre beni e servizi di interesse generale, progettare un'opera pubblica, addirittura autoproduzione di beni e servizi strumentali. Faccio un esempio: se l'amministrazione ha necessità, un comune ha necessità di approntare servizi di pulizia dei propri locali, può costituire benissimo, esatto. Può costituire benissimo un'impresa di una pulizia. Società pubblica. c'è un tentativo, cioè in realtà dire, diciamo almeno sulla carta negli ultimi anni dal 2007 in avanti i criteri sulla carta, perché poi mai attuati, che erano entrati nella legislazione italiana, erano più avanzati della definizione delle aree in cui lo Stato resta, che sono in questo decreto legislativo, più avanzate, perché... non meno avanzate, cari ascoltatori, no, più avanzate. E sono queste, erano l'articolo 23 bis del decreto del 2008, del 112 del 2008, che diceva che quando l'amministrazione pubblica voleva svolgere un servizio doveva prioritariamente affidarsi al mercato tramite una gara di evidenza pubblica, e solo in via residuale poteva svolgere il servizio in house secondo i criteri della Corte di Giustizia Europea nella sentenza Tecal. E poi fu un modificato, come voi ricorderete ci fu il referendum, no? Quello che, se mi posso permettere un giudizio, fu un sciagurato referendum che costrinse a cambiare la legislazione, però si tentò di riportare le cose come erano prima e si disse che l'in-house si poteva fare solo se il valore del servizio era inferiore a 200.000 euro e poi a 900.000 euro. Intervenne una sentenza della Corte Costituzionale che disse che questa norma era elusiva del referendum, perché adottata troppo a ridosso del referendum stesso, e quindi adesso abbiamo fatto un passo indietro, perché adesso il criterio diventa di nuovo indifferente. Praticamente l'amministrazione può decidere addirittura se trattenerlo in house, se dare vita a una addirittura azienda speciale, qualcosa di simile alle vecchie municipalizzate, sostanzialmente. Allora, ritorniamo alla discrezionalità. Ascolta, e in più nel testo c'è scritto che in ogni caso, anche rispetto a questi criteri più laschi del passato, non so se è chiaro, sia nell'identificazione delle aree in cui restano le partecipate pubbliche, sia nei criteri per bandire a gara i servizi rispetto a in-house, sono più laschi del passato, esatto opposto di quello che abbiamo detto. In ogni caso è prevista la deroga con decreto della Presidenza del Consiglio rispetto a qualunque cosa. Quindi più chiaro di così. In più il meccanismo di identificazione degli amministratori unici è accentrato sul governo. E poi, ultima cosa, sì, il governo ha perso, perché questa nuova autorità di controllo, di cui secondo me non c'era un grande bisogno, però insomma questo organismo di vigilanza è rimasto al Tesoro, riconosciamolo, e non alla Presidenza del Consiglio. Ma per il resto, cari ascoltatori, attenti alla bufala, perché chiuderanno le scatole vuote e un po' di società che hanno più dipendenti che amministratori, ma per il resto io accetto qualunque sfida per vedere se le 10.000 diventano 1.000, come ha detto Renzi, perché non ci credo. Nel meccanismo del decreto troverete l'indicazione che oltre un certo anno di perdita si va in chiusura. Allora voi potreste dirmi, ma allora quella che perde di più da 10 anni, cioè l'ATAC, e quella che la segue, cioè l'AMA, verranno cedute e chiuse? Vi dimenticate che il decreto della Presidenza del Consiglio in quel caso puntualmente dirà che non si fa. Quindi attenti alla bufala, perché il decreto partecipate ne ha proprio l'aria. Grazie a Rocco Nodero, torniamo tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. E allora, i compagni di Conti della Belva, come sempre, adesso si trasferiscono a Pechino, perché il nostro appuntamento abituale, ma è un punto di riferimento che bisogna sempre avere chiaro in mente, perché sì, noi ragioniamo Carige, MPS, che fine fanno Veneto Banca, la Popolare di Vicenza, se sarà BPM, Banco Popolare a sposarsi, o sarà l'UBI a impestarsi con MPS, saranno unioni civili, caro Oscar, ma neanche le unioni civili, perché qui si adesso... può fare anche quello lì, no, PD di proprio le tre anni, ecco, la finanza del PD, vaticana che impedisce le unioni civili. Ridi, ma poi alla fine, sai, Sindona e lo Iorre sono esistiti, non me lo invento io. Detto questo, ma in realtà rispetto a questo poi il problema vero è un altro: riuscirà la Cina, eccetera, eccetera. E allora, sigletta del nostro piano quinquennale. Hey, have you guys heard what's going on in China? President Xi Jinping's new style. Ecco, il presidente Xi Jinping. Rita, come stiamo, Rita? Ciao, come va? Bene. Sono appena rientrata da Hong Kong, che è, come dire, questa regione speciale che è l'oggetto del desiderio. Non mi fare piangere. No, delle grinfie. Io la preferivo quando non era sotto il tallone. Anch'io, la baia di Hong Kong è un posto bellissimo. Ragazzi, però la baia è meravigliosa. È un posto bellissimo, ecco. Però... adesso devo dire che l'abbraccio mortale si sente, ecco. Non c'è niente da fare, cioè, lasciamo stare il discorso delle rivolte, tutti sanno cosa è successo, certo, un anno fa e così via, però in una serie di aspetti, di cose, di situazioni, Hong Kong soffre, solidarietà, devo dire, solidarietà. Sì. No, perché temo che oramai il suo destino sarà lento, graduale, ma segnato a oggi. C'è poco da fare, perché il partito, il regime ci metteranno il tempo necessario, ma stroncheranno qualunque velleità. A maggior ragione, viva l'indipendenza del Taiwan! Questa è la... No, vabbè, ma come no, viva! No, ma no, ma come qua, no, ragazzi, no? Stiamo scherzando. No, nel senso che, insomma, adelante Pedro. Sì, calma, adelante Pedro, però... Momento. Ma no, per fortuna, però la grande leader pluriavvocatessa per me è un punto di riferimento. Abbiamo visto che Pechino ha un po' storto la bocca, No, lei chiaramente è una persona che, di carattere, e chiaramente il nostro presidente Xi Jinping, anche lui lo è. Come il nostro? È diventato anche il tuo? Ci hanno cooptato, ci hanno cooptato la vita! Non è che ci hanno cooptato, però io sono in mainland China, sono a Pechino, quindi è nostro, in quel senso, localmente. Ragazzi. No, lui sicuramente avrà una bella gatta da pelare, lo sa, e troverà il modo sicuramente per gestire questa cosa qua. Però tornando a Hong Kong, credo che sia una prima vittima della globalizzazione, o quantomeno, cioè, del tentativo della Cina di riformare i propri mercati allargandosi, ma c'è una sorta di effetto contrario, cioè c'è una sorta di come dire, effetto Dracula, nel senso che, no, è chiaro quello a che mio dice, avviso, sì, la Cina sta risucchiando il know-how, le capacità e quant'altro. Sapete della stock connection tra le borse di Shanghai e di Hong Kong? Mm-hmm. È possibile adesso creare, quotare sì, delle aziende a Hong Kong e viceversa. Insomma, si è creato questa cosa qui l'anno scorso, era il tema del giorno, più o meno un anno fa, e a un anno di distanza, sinceramente, credo di poter, siccome ho partecipato a questo Financial Forum che si tiene ogni anno a Hong Kong, di poter in qualche modo intuire che, diciamo, non è stato proprio un win-win. No, è stato un po', è naturale. Ma non solo perché la borsa è andata in tilt, quella di Shanghai, ma proprio perché c'è questa sorta di vantaggio per mainland China, mentre Hong Kong comincia a veramente a però a mostrare... Rita, lo sai, io ho tanti amici che da Hong Kong alla fine hanno considerato che forse Shanghai ha più massa critica, più vicinanza con il potere politico, e quindi c'è stata una migrazione anche di cervelli, di energie, e come dice giustamente Richard Florida, alla fine la creatività è un fatto di luogo e di densità, è un fatto, delle persone, sì, è un fatto, e quindi di... se ti sposti da Hong Kong, che prima dunque, era... per luogo stiamo attenti, perché proprio non tutti conoscono naturalmente Richard Florida e tutta la letteratura di questi ultimi tre decenni su grandi aggregazioni sono i motori dello sviluppo, certo, mondiale. Il luogo non è più diventato solo un luogo fisico, è un luogo logico, organizzativo. È un luogo in cui si concentrano organizzazioni di reti, eccetera, anche se poi si incardina in grandi metropoli che hanno avuto l'intelligenza di diventare, certo, questo. Le città-stato italiane, quelle tedesche, lo hanno spiegato nel Medioevo, nel Rinascimento. E oggi secondo me, il dibattito fra Hong Kong e Shanghai è un dibattito che riprende quella strada tra le nostre repubbliche marinare, tra una Milano e una Firenze. Ragazzi, io sono per il modello Singapore. Adesso chi lo conosce è un autoritario. No, Singapore è un posto fantastico, cacchio. E invece fammi difendere il modello cinese, Rita, che con grande sforzo sta andando. Aspetta, Rita, ci sei stata a Singapore? Rita? Non ci sente più Rita? C'è stato un blackout. No, ti sento. Ma ci sei stata a Singapore? Assolutamente sì, ci sono state il giorno in cui il nostro ministro tesoro ha dichiarato che Singapore era fuori dal blacklist, quindi un momento storico. Pensa un po' se per Singapore deve essere considerato un momento storico in cui non è più la blacklist dell'Italia. Non prendiamoci per i fondelli. Singapore è storica per ben altro. Però detto questo, Oscar, aspetta, non puoi sempre, come dire, essere così drastico. No, ho capito, però in un paese che è troppo democristiano e ipocritamente invece di solito non capace di scegliere, io indico un modello. Per me, francamente, io sono sincero quando dico che spero che Taiwan non si faccia mai irretire in maniera pacifica, ma anche vigorosa e muscolare dalla prospettiva di Hong Kong, perché sennò è finita Taiwan, verrà sottoposta. Assolutamente, questo l'abbiamo detto già anche l'altra volta, ma sai che dal 1 aprile, che non è un pesce d'aprile, anche Hong Kong esce fuori dalla blacklist? E vai. E vai, perché finalmente potrai dichiarare quello che c'hai di tutti i tuoi capitali che hai negato. Sarà sicuramente un po' semplice. Per le aziende italiane riuscire a gestire tutta la parte fiscale, però questo vuol dire togli anche abbastanza PIL alla piazza. Toglie PIL alla piazza, però scusa, normalizza i rapporti con la Cina. Adesso fatemi dire una cosa, abbiamo bisogno anche di stabilità e di normalizzare. Lo sforzo del governo cinese di andare verso la convergenza internazionale per me è importante e va riconosciuto, con grandi difficoltà e grandi contraddizioni, anche se dargli automaticamente, voglio dire, lo status di mercato dell'economia cinese, io ce ne piano. Su quello possiamo discutere. Anche sì. Però c'è tempo, ci saranno altri 6 mesi. Alla cinese. Alla cinese, brava Rita, così. Alla cinese. Ma secondo me Rita Fattigoso non tornerà prendendo mai più in Italia. Ma infatti io vado con lei, cioè ci sono andato 17 anni fa in Cina. Ho bisogno di collaboratori validi, esperti e motivati, quindi non c'è problema. Va bene Rita, allora noi intanto ti ringraziamo e ci risentiamo sabato prossimo. Grazie. In trasmissione, grazie Rita. Cari parenti italiani di Rita Fattiguso, ex fidanzati e amanti, noi come avrete capito non avete più chance, non tornerà più, ma noi vi saremo il vostro ponte per Rita Fattiguso, che oramai fatica anche a parlare in italiano, questa è la verità, perché è presa solo da amanti cinesi, questo è il punto. Molto vero. Ciao Rita, torniamo tra un minuto con Non si può fare Renato Cifarelli. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qui tornati con i compari dei conti della belva e oltre a me Carlo Alberto e Mario, che c'è ancora? Ci sei ancora Mario? Sì, sono qua. Eccoci qua, c'è anche Renato che ci ha raggiunto. Renato, come stai? Buongiorno. Bene, voi? Sempre lì ad accumulare palanche, Renato Cifarelli. Sì, certo, naturalmente. Ma tu pure pagare queste tasse, no? Anche perché... Senza quelli come te, lo Stato come le garantisce i non performing loans? Vabbè, comunque sto scherzando. Intanto faccio fatica a spiegare ai dipendenti pubblici che se non ci fossi io a pagare le tasse per pagare il loro stipendio, provocatore, le loro tasse non pagano niente. No, ma a questo proposito, allora, ho un grande annuncio che so che vi porterà una grande gioia. Ahia. Hanno anticipato il momento nel quale vi faranno il Q. Il Q, nel senso, spieghiamo, lo faranno entro il 7 marzo. Ma hanno aumentato le multe per chi non ve lo fa. Quindi voi state attenti, perché entro il 7 marzo dove qualcuno deve farvi il Q, soprattutto se siete dipendenti. Io faccio l'unico e quindi non me lo devono fare. No, adesso parte di scherzi. Voi sapete cos'è il Q? Ce lo facciamo tutti i giorni, ma se ce lo ricordi. Il CUD, no, scusa. Il vecchio CUD. Adesso si chiama Q perché evidentemente l'Agenzia delle Entrate sono degli spiritosi. Sì, allora. No, beh, tanto vale essere efficaci anche negli acrostici, nelle sigle. Perché questa D non dava bene l'idea. Leviamola ed è più chiaro. No, allora, un'altra cosa che si collega sempre appunto al Q che vi faranno, che il famoso 730 compilato, per cui avevano promesso che ci sarebbero state le spese che avete fatto in farmacia durante l'anno 2015, spero che abbiate tenuto gli scontrini, perché siccome le norme attuative sono entrate in vigore ad agosto 2015, e quindi, come chiunque può capire, se una cosa entra in vigore ad agosto, tutte le spese che tu hai fatto da gennaio ad agosto si sono perse nei meandri dei big data nazionali, così citiamo i big data, esatto, che piace sempre al nostro amico Carlo Alberto. Quindi spero che vi siate tenuti gli scontrini, perché quest'anno nel 730 precompilato non ci saranno assolutamente le spese delle farmacie. E la direttrice dell'Agenzia del Trade nell'annunciarlo ha incolpato le farmacie dicendo: non hanno capito la legge. Ma come non l'hanno capita? Non c'era! Come se la legge non prescriveva di tenere loro i dati, perché avrebbero dovuto girarli a gennaio, perché avrebbero dovuto tenerli. Comunque lo Stato è riuscito a fare un'altra pasticcia. Non l'hanno capita la legge, non c'era. Comunque, invece insomma, per le aziende, un'altra chicca, mi sono letto tutte le norme della legge di stabilità 2016 che i commercialisti mi hanno mandato. Mm. Ti sei fatto il culo anche tu, diciamo così. Sì, esatto, è una di quelle cose divertenti, sai quelle che metti lì il fascicolo sulla scrivania e dici no, adesso poi lo guardo, adesso poi lo guardo. Te lo porti a letto per addormentarti, questo è... Allora, una grande innovazione è che è deducibile dal reddito d'impresa i contributi ai consorzi obbligatori. Cioè, questa è una novità, è una concessione che il gabelliere ci fa, cioè di poter dedurre dal reddito d'impresa, quindi non pagare le tasse su dei soldi che uno dà per una cosa di legge. Cioè, Sì. Ti lamenti, mi sembra un grande riconoscimento. Devi riciclare l'olio usato, sei membro del consorzio obbligatorio e ti fanno addirittura lo sconto sulle tasse. Mi sembra che... No, non è che mi fanno lo sconto sulle tasse, mi permettono di togliere dalle tasse le spese. Questo, no, ma questo era per dire che la dice lunga sulla situazione in cui siamo in Italia. Cioè, in Italia abbiamo bisogno di dire che una spesa che è per legge può essere deducibile, e questo, per chi si sia mai occupato in vita sua anche solo un po' di amministrazione, la dice lunga sulle cose che incontriamo ogni giorno per chi fa impresa nella gestione delle tasse, nella gestione di tutta la parte amministrativa che ti fa impazzire, insomma. Io ti dirò che a proposito, sempre tornando al 730, siccome poi a quel punto uno va a vedere tutto come sta la compliance, l'adempimento in corso degli altri filoni, nell'apprendere che invece le spese mediche ci sono, ma ci saranno, almeno dovrebbero esserci, così ha detto l'Orlando nella prossima versione 730 precompilato, però nell'apprendere che i medici che dovranno appunto girare tutti i dati di ogni nominativo di paziente e prescrizione il 31 gennaio all'amministrazione tributaria, nell'apprendere che per ogni singola omissione di ogni singolo dato come minimo è 100 euro, ma loro in realtà sono esposti a sanzioni fino a 50.000 euro. Euro, allora, nel vedere i medici che diventano anche loro agenti tributari e per di più esposti a 50.000 euro per semplici omissioni, allora io mi auguro che loro abbiano delle buone amministrazioni in ogni studio. Conosco moltissimi medici che hanno detto: ma questi sono matti, ma io con quel lavoro che faccio figuriamoci se sono in grado davvero di poter evitare omissioni. Questa è la realtà di come fanno il precompilato, cari contribuenti. Auguri a uno Stato che continua ad andare avanti così. Diventiamo tutti dipendenti dello Stato, siamo tutti oramai agenti tributari esposti patrimonialmente verso di lui, oltre che per obbligo tributario, perché sostituiamo i dipendenti della Orlandi che erano dirigenti illegittimi, riconosciamolo sempre. Allora, grazie da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario, Renato e Mario, ci sono qua. E grazie anche a Beppe Grillo che ci ha telefonato, che ci ha voluto omaggiare con quella avanti telefonata. Così. Avanti così, fai il tour, soprattutto fai il tour, occupati di quello. Che veniamo a vederti continua in teatro. Radio 24, va. Appuntamento come alle 8 e un quarto di lunedì mattina con Alessandro Milani. Attenti a noi due. Fratelli d'Italia, l'Italia, le vesta, dai tempi.